fortissimo, sì. Ciao, va bene, ciao, va bene. Già, compreso un DC. Ma stai entrando in Via d'Italia? Ma mancano tipo 3 chilometri qua, se va, niente di che. Kappa, dai. Infatti c'è un bel forte, sì. No, ma direttamente, solo faccio di nuovo. Kappa, dai. Ah, fermo la bruva, fra un poco. Oh, davanti un deficiente sta andando, venga allora, adesso mi trovo la vecchia. Vabbè, e cosa vuoi va? Oh, se le luci sei già spostato al volo, fidati. Aspetta che faccio uno scambio, 2 secondi. Mi fai fare? Cosa, devo fare uno scambio di antenna. Cristian, ci sei? Ci sono. Kappa, dove sei arrivato adesso? Kappa, ti sento un pochettino più basso. Forte ti arrivo io da quale parte? La radio, il signore è sempre lo stesso, la radio è molto più squillante adesso. Già, un grido già. Sfamata di Nibaria. Processore? Altro che processore, Obi. E più la mia cuccia. Kappa, dove sei arrivato? Mi sono in rotatoria. Dove? Mi sono in rotatoria. Kappa. Quanto è chiaro? Ma per me è la cadiglia. Eia. Passa il corso ricco, passa. Devo giocare a tennis adesso. Non ho capito. Devo giocare a tennis. Se vi arrezzito, sì, vero? Ma da legge, no? Forte arrivo in quelle zone. Sembra la paura di cannone qua, come strale. pure tu mi stai arrivando un bel forte. Beh, posso immaginare, sono vicino ai carabinieri. Sei un bel forte adesso. Adesso sei forte. Cazzo, allora! Che sono in giro, porca miseria. Non ti ho capito. Insomma, le gnocche in giro. Sì. Kappa. Dove sei arrivato, Cri? Sono già alla caviglia, guarda. Non ho capito. Sono già alla caviglia di tennis. Vicino al carabiniere. Kappa, forte. Sì, stai viaggiando, sei quasi 9:30, sì. Non si immagina. Kappa, scommetto che tutto inciurato mi susmitta, no? Ma vabbè, mi susmitta, non fa male. Vieni, che già ti voglio bene, vieni. Ah, che bellino che sei. Come fa il cane? Ah, che scalda, vai. Massima potenza. Vediamo, mania cazzo, fa cosa vuoi? Hola, chicos. Dove sei arrivato adesso? Vicino? L'ipodromo. Ah, l'ipodromo, sì. Eia, ti sei spaccato anche il dieta? E ancora un bel abbaino. Tu stai andando a casa, non vuoi che spacco lo smetto? Attento, mantieni lo zoom, che no, che sta potenza. Ma già si è fatto a casa, Si chiama Bifu. Bifu? Abbassare la finestrella ai nocchi. Ebbene, Cri, dove sei arrivato adesso? Via Napoli, sono qui vicino a te. Sì, guarda, quando arrivi all'altezza di Giumin, via Mendola, già comincia a bollire forte qua. No, sono già via Mendola, se per quello, sono già arrivato. Ancora non sei arrivato, no, non ti preoccupare. Quelle zone sono favorevole, penso che ti arrivo fortissimo. Ho superato, è lì che è naturabbia. Non ho capito. Superato, poi gli occhi che lo vogliono girati via. Ho capito. Da lì in pieno. Cazzo, ho dovuto chiudere la lucernaio qua perché c'ho la compressione nell'orecchio. La mazza che ti li varia. Fatti dirmi, parla bene. Kappa. Parla bene, capito? E chi è, amante? Vieni che ti aspetta, vieni. Ma così mi vuoi? Ehia, così ti voglio là. Così non va bene, va bene. Abbassa l'eco, se non si capisce niente. Buon lavoro, ecco. Allora fai un buon soffetto cattedrale. Pensa con me. Dai, dai, adesso tu sei già... Stai già prendendo la piega giusta, dai. A contento sei arrivato. Adesso sei in clinico. La massa di nevaria. Perché? Ti sto staccando la smita? Ancora qualche centimetro, dai. Questo arriva a 90, l'altro ci arriva un po' di più. Capa, ma pure tu e soffrendi di smita, non ti preoccupare. Vabbè, io sono soffrendo. Capa, pure l'ammortizzatore, mi. Capa. C'è un altro, il radiale. Non ve ne è radiale, non Pino. Ma la fase 2, tu fai prima. Ma cosa? Lasciamo, ma tutto lo lasciamo e poi passo io. Ragazza, mi rimani in occhi, non ti preoccupare. Sei arrivato. Dove c'è il spino, le conce. Aia, acciara di paradiso. Non ti preoccupare. Adesso ti sei ben a tiro, mio, adesso. Da un po' passi sotto casa, diciamo all'interno, vai. Dopo le conche siete, hai passato il corso picco? No, ancora sto come al semaforo. È la gnocca. Adesso siete toccando il DB adesso, eh. Adesso sei proprio a fondo scala. Cioè, vado avanti, una gnocca, un gnocco, cosa che è meglio di te. Beh, quella si ombra di dubbio. È come sblatterendi, beh. Dimmi una cosa, cosa facevi su 42 stasera? Non ho capito. Cosa facevi stasera su 42? No. Adesso sei su DB6. Adesso sicuramente mi stai passando davanti. Com'è? Forte, eh? No, sempre lo stesso, sei qui. Ebbene, ho un grido, ya. Tu mi stai toccando il DB, mi stai toccando il DB, adesso per dire esattamente dovrei attaccare l'altro per vedere quanto sei. Attacco, dai, veloce. Papà, dai, spegniamo questo, là che fa bolle, ya. E spegni, bravo. Prova a vedere quanto sei. Adesso quanto sono, a te? 9,50 radio 5. Va bene. Beh, sei sotto casa, sei. Già un grido. Adesso lo spegniamo. Se non c'è Carrefour adesso. Non ho capito. Dove c'è Tanit? Gaffa, adesso. C'è ancora, sei intorno ai 9,40, sì. Va bene. Scaldo, figlio re. Hola. Cazzo, ha rotto le balle. Aspetta. Cazzo, il pulsante. Hola. C'è un difetto a pulsante questa cosa. Ciò può andare bene, dai. Facci da lura. No, sì, che non è un microfono, non è un microfonino, non ho visto. Non è che te lo posso lambagucci, preferisco aggiustarlo. E ho bisogno di nuovo, costa 160 euro questo microfono. Cosa si dice? Mi manca di tutti i team. Cosa vuoi zendi? E vai su internet a vedere quanto costa l'MC69, vai. Capa, c'è un difetto a quel cavolo di tastino, ogni tanto mi dà problemi. È BTT si chiama. No, non è roba di BTT, no. C'è un tastino sotto che cambia l'impedenza, cambia. E con lui mi sta dando problemi. Bravo, bravo. Quanto arriva adesso? Prova. 3, 3, 9,40. Adesso sono parcheggiato però, eh. Ma il Tanit? Cappa. Qua arrivi bene, la verità. Arrivi molto bene. Allora, c'è una tela, una Sigma, vecchio stampo. C'è la pelle di me, spifidi. Antonio te l'ha data, ma cosa? mangiare una frutta nera, cos'è questa cosa? Sì, è tipo frutta nera. Sono buone quelle. Allora andati bonito, nel parcheggio di bandiera gialla in alto, lì già spari forte. Se sentivo a cosa, quello patato sentivo da casa anche io, figurati, con il nino piccolo. Anche qua già arriva. Va bene. A me, credo che va un po' basso di segnale. Giulio me lo va a palla, È una posizione diversa. Quando arrivi a, quando arrivi a carbonata arrivi a un bel po'. Sì. Vabbè, come arriva sempre a palla lo stesso. Capa, io come ti arrivo? Bene. Un passaggio? No, quella qua in campagna. Ma è di buono, se no è basso perché c'è anche una piccola sulla capota. Capa, già va bene, dai. Sì, vabbè, la posizione è quella che conta. Io sono una vallata, sulla Woody Woody. E a Ugria. Lì, tu c'è spazio, c'è lì parcheggiato. Ma lì sicuramente è a fondo scala, per forza, perché lì, quella zona lì io la prendo in pieno. Purtroppo ci abbiamo le zone, poi c'è zona via Milano, su in alto, sono libero io. Prendo molto forte, Don Roberto qua arriva fortissimo. Arriva. Roberto mi stacco lo smito da casa, figurati. Da quella zona mi arrivi forte, Già va bene, dai, non posso lamentare. Scappa. No, Roberto 4 qua mi arriva un bel forte. Molto di più di altri, molto di più. Con l'antenna come ci deve è tutto quanto un altro pianeta. Tu sei per Sara sì, in giro, vero? Con chi? Ho visto la foto con Sara al mare, e tu pure. Ma conosci a Sara? No, non la conosco, conosco per una vita. Ah, allora già. Adesso prima era con il sugaccio, adesso è con me. Ma Sara Fede Pasquarino si dice da me. Oh, ho capito. Fede Pasquarino. Ah no, io sono con Sara. Io stavo pensando Sara la mia compagna. Ma Fede Pasquarino? Ah sì, ho capito. Io pensavo Sara mia. Capito. No, non sarà tua, Sara piccola. Il ventilatore andando in graghicina, suga. Sento ci vuole, niente. Ah, si sente? C'ha qualcosa, c'ha. Ho ingrippendi, boh. Anche marazzo ci va, abbiamo un po' godotto. Come ti sei fotti dimmi? Come hai detto, che eri... sei con Sara, così ti hai detto tu. Ho visto la foto di te di Sara al mare. Ma Sara mia però. No, Sara l'altra. No, non è possibile. Non dico la tua ragazza. La mia ragazza è Sara qua, La tua ragazza è biondina, No. Assolutamente, ti stai sbagliando. Adesso è una biondina, Ma cosa si intende? La mia ragazza non è biondina. Non so, la tua ragazza la conosco, l'ho vista anche, non ho problemi. No, ma stai dicendo Sara, quella economica mia, che tu dal mare lei era con te in spiaggia, ha fatto una foto, mi sembra. Sara mia stai parlando. Su Facebook, ho visto la foto. Io non ho su Facebook di foto così, guarda di zende. Forse l'anno scorso. Ma io sono sempre con Sara mia. Sara la figlia di Pasqualino e con un altro, non c'entra niente con me. Lo so, Sara con la figlia di Pasqualino e con un ragazzo adesso, un nuovo ragazzo anche. Ah, un nuovo ragazzo, ciao. E l'altro è un imbecille. Io devo in va. Voglio tornare a casa, coricarmi, fammi la doccia. Ah, con il capo bianco di Guru. Questo è l'altro giorno, lo sai? No, e come? Il capo di Guru, sono arrivato, se questo è l'altro giorno, la tua doccia. Io? Io l'ho visto. Ma che hai visto? Il capo di Guru, visto il coso, che fa il culo, Ma no, era un gattoraggio. È un gattoraggio. Ah, non ghiaccio in banda laterale, intendi tu. senti a chi su? Al tuo segnale, uguale identico. Domani. Perché non la palla pure qui? Non penso che abbia il mio segnale, no? Radio no, ma il segnale è quello insieme al tuo. Ah, addirittura. E poi gna, fate proprio il casino. Sì, che poco fa gli ho rotto le scatole, che era con la... col gigetto, vero? E poco l'entra a me. Oh, la gigetto ti fa male. Sì, ha fatto male a Ed. Oh, ma tutti sono distrutti in questo vaccino, ma sicuri siamo. Ho fatto, non c'ho niente, e sono tranquillo. Allora mi puoi un po' con paura. Allora io l'ho fatto, ma come dicevo l'ho fatto, sono tranquilli. Non è sulla cosa collaterale, guarda. Capa, abbraccia un po' questo microfono, questo non è forte, un po' di voce non ti intendo, beh. Ma è così, a persone, alcuni l'hanno lacrimati, alcuni non l'ha fatto nulla, non se ne comprende nulla. Ma non l'ha fatto nulla, lascia pure. Capa, boh, ognuno dice la sua. Che vuoi cosa fare dal tuo medico, che sa se fatto oggi e sa cosa fatti. Ma non è che il mio medico va a fare quella roba lì, no? Cosa fa? Il medico di base, va il medico di base, che però fa il medico di base, sa che malattie hai e sa che vaccino dati. Grappa. Mamma mia, sono preoccupato, il 21 faccio di fare questo vaccino, faccio di va. Ah no, mamma raga. Ma tranquillo, non succede niente. Ah, dici che sta nel bocciù. Lo Viagra. Ma che fa il Viagra? La tua età? No, il vaccino. Paghi su che sono sempre in alta bandiera. Sarà paghi su, Antu. Ciao Natali, buonasera. Sono in compagnia di Cristian. Ciao Antonio, ciao Cristian, dai, io sto chiudendo tutto, che me ne vado a coricarmi, alle prossime. Ciao Natali. Capa, ok Natali, mi avete salutato Cristian. Sì, l'ho salutato anche io, dai. Ciao. Capa, capa, la Budi Budi sta riscendendo. No, sono qui, ci risalgono di Pisa adesso. Capa, arrivi forte lo stesso, vai. La mia è tanto allora. Dai che c'è 9:20 a Santa Maria di Pisa, a me no, è poco come. Ma se vuoi sapere se ce l'ha fatto in Siria, fatto la fase della Siria. Capa, no, ma dico, non è poco come. Per arrivare qua. Cioè, già lo so che è fatto bene l'impianto. Capo, la passi in DC è forte. Ma io non so, capo, quando attacco un gatti sul gozzo, devo... una compressione all'orecchio mi arriva. Già me l'avevo detto, già devo stare attento, ma... Adesso sto qua, sono a tutti tutti adesso, guarda. Santiago Nove. Questa passa il segnale, questa si abbassa, purtroppo. Scappa. Leggendo un messaggio. E beh, sei arrivato. Già a casa tua sì. Quasi. Capa. Questo passaggio 7. Sto prendendo un po' di casino qui. Molte volte è troppo. Avrò difficoltà a sentirti. Capa. Sei arrivato? Ma la sua cosa è arrivata a te adesso, non mi senti? Bene, bene, sei sempre intorno a 7-8, 7-8. Un po' bassa è la zona, Cappa, vai, se mi stai sentendo ce la risentiamo. Che adesso chiudo perché mi gioco drumenti. Ciao!